Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Carlo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Vabbè ragazzi, ma lasciate stare, dai. Franco Piantanelli, l'autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, li ringrazio, ma tanto non è il mio compleanno perché io sono Peter Pan. Il mio compleanno non esiste, 29-2, quindi 29 febbraio quest'anno non c'è, non mi risulta, e io resto bambino, ciao. 800-24-0024 è il numero verde, è un venerdì estremamente interessante perché ci prepariamo ad un lunghissimo Juventus-Fiorentina che comincerà domenica prossima alle 12.30 in campionato, giusto per assaggiarsi. E poi ci sarà quella che conta, che è Juventus-Fiorentina d'Europa, il 13 e il 20 marzo, e lì ci divertiamo. Borca Valero in quelle partite ci sarà, dato che per fortuna la squalifica non quella ridicola. Torno a, adesso sono, io mi devo quasi scusare con voi perché non ho dato, nei giorni scorsi non abbiamo dato il giusto peso, probabilmente per distrazione, probabilmente per stanchezza, probabilmente perché stiamo invecchiando, il giusto peso a questa decisione ridicola che nessuno ci spiega, perché di fatto è così. Gli arbitri non parlano, i disegnatori dicono che è tutto bene nel rotore d'avorio, designatori capi degli arbitri, e dunque ci becchiamo questa ridicola squalifica di Borca Valero. Allora, Pardo è in camerino per il trucco, perché per radio non si può rinunciare al trucco, arriva tra poco. Intanto saluto e ringrazio Alessandro Vocarelli, ex direttore del Corriere dello Sport e penna illustre attualmente di Repubblica. Ciao direttore. Grazie. Ciao. Ciao, grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Pierluigi, quindi al trucco. È al trucco, sì, perché per radio non si può rinunciare, quindi arriva, guarda, tra 3-4 minuti. Tra 4 minuti lo troviamo al telefono, adesso è in camerino. Mandami poi però almeno una foto, insomma. Perché se ti vuoi far del male, hai il gusto dell'orrido. Pierluigi, truccato, è comunque qualcosa che merita. Io lo adoro, poi sai, è un po' depresso perché a proposito di compleanno il 4 marzo ne fa 40 e quindi è molto depresso, ti devo dire, in questo momento. Però vabbè, tant'è. Senti, ma c'è qualcuno che ci spiegherà mai... 4 marzo, tra l'altro, una data storica. È certo. Non per niente è nato Pardo. Senti, ma c'è qualcuno che ci spiegherà mai questa ridicola squalifica di Borca Valero, che per fortuna non varrà in Europa, perché adesso ci proiettiamo lì, no? Il campionato ormai è cristallizzato, è in rigor mortis quasi. Però è una squalifica che pesa, perché la Fiorentina è comunque ancora in piena corsa, sia per cercare di attaccare il Napoli, sia comunque per difendersi dall'Inter, e rinunciare a un giocatore come Borca Valero per 4 giornate significa per una quota importante del campionato. Non ce la spiega nessuno, non solo non ce la spiegano, ma mi sembra che dimostrino con i fatti che sono convinti e coscienti di quello che stanno facendo, addirittura designando Gervasoni come addizionale per la partita. Non si poteva evitare, secondo te, direttore? Io direi di sì, ma guarda, si poteva evitare sia per tutto quello che comporta, ma sia anche per Gervasoni stesso. Io credo, certo, che in questo momento si cerchi di mettere gli arbitri nelle condizioni peggiori. Da una parte gli arbitri sono gli unici che non possono sapere quello che succede in campo, perché tutti, dai telespettatori agli spettatori, agli uomini a bordo campo, sanno in tempo reale quello che succede, meno gli arbitri che non possono vedere un monitor o qualcosa. E poi però quando sbagliano, oppure quando ci sono situazioni obiettivamente sbagliati come quelle che hanno portato alla squalifica così pesante di Borca Valero, finiscono addirittura per mandarlo subito a recitare un ruolo importante in una partita molto importante, quindi rischiando di sottoporlo all'ennesimo giudizio a tempo proprio ravvicinato. Per cui credo che Nicchi e Braschi stanno facendo del male non solo al movimento, non solo a loro stessi, ma questo sarebbe il minimo, perché almeno ognuno risponde delle proprie azioni, ma anche ai loro arbitri, perché spesso se ne escono con delle cose che finiscono per metterli in difficoltà. Sì, io ho quasi una sensazione che voglio condividere con te, innanzitutto, e con gli ascoltatori 800240024. Mi sembra che in questo particolare momento sia quasi un guanto di sfida lanciato da Braschi e Nicchi a tutto il mondo, no? Cioè, voi vi lamentate di questo? Ebbene, io lo mando a passeggiare sulla linea di fondo campo in una partita più monitorata che c'è in questo momento. Hai ragione, appunto, è un atteggiamento di sfida, ma voglio dire, Nicky e Braschi ormai finiscono anche per contraddirsi a vicenda, perché la settimana prima Nicky dice la televisione e la TV sarebbe la fine del calcio, la moviola in campo. Una settimana dopo, su quel fallo in Torino-Juventus, Braschi dice e solo la TV poteva vedere quello che è successo in campo, che vuol dire che praticamente noi ci stiamo facendo del male, cioè esatto, nel senso che il movimento rinuncia all'unico strumento che può dirti quello che si è visto veramente, come se ai noi si facesse a meno dell'autovelox per dimostrare un eccesso di velocità, ma addirittura ormai la tecnologia viene usata nelle strade, perché abbiamo le telecamere che ci riprendono, diciamo, nella nostra vita quotidiana, lì dove stanno per definizione, cioè per vedere una partita non dobbiamo usarle. Io trovo che sia veramente un controsenso. Sì, io non la penso esattamente così, perché io sono dell'idea che gol non gol, palla fuori, palla dentro, e lì è ora di arrivarci. Sul resto io preferisco evitare. Però perché mi dici così? Cioè, lo sport dovrebbe essere uno, no? Perché la certezza del diritto, direttore. Senti, facciamo così, adesso sì. Il traffico, poi arriva Pardo che sta uscendo dal trucco. Ah. Ne parliamo tutti insieme, eh? Bene. Tutti convocati. E basta, ragazzi, vi scongiuro. Pierluigi Pardo, eccoci. Ciao. No, stavo parlando con il direttore Vocalelli, no? Gli ho detto che eri in camerino per il trucco, perché per radio è essenziale. Lui vorrebbe una tua fotografia, ma io eviterei, se vuoi gliela mandi. Perché Pierluigi fa tardi la notte. Va bene, gliela mando un po' virata seppia, no? Con una certa qualità, cercando col Photoshop, cercando di aprire. Auguri comunque, Che? Tu essendo nato il 29 febbraio. Io sono Peter Pan, dai, fa il bravo, lo sai. Lo so, quanti anni hai adesso? Ma chi 11. Lo sa? 11 94 Quanti 29 febbraio ci sono stati dopo la tua nascita? 11 quindi. Sì, vabbè, ok, rimango lì. Senti, stavamo amabilmente discutendo su Alessandro Vocalelli favoreva la moviola, io no, ovviamente, discorso epocale. Tra l'altro il board della FIFA si riunisce oggi per decidere su cambiamenti epocali, no, quali il divieto di scrivere qualsiasi messaggio o immagine su indumenti sotto le maglie di gioco, l'autorizzazione dei copricapi o ancora una maggiore flessibilità nei cambi di giocatore a livello amatoriale e giovanile. Queste questioni all'ordine del giorno, mentre la riflessione sulla tripla sanzione e l'eventuale ausilio del video per aiutare ufficiali di gara, cosiddetto quarto uomo, sono unicamente sottoposte a discussione e non potranno in alcun modo sfociare su modifiche delle leggi del gioco per la prossima stagione. Amen. Meno male, va, un po' di conservazione. Ci siamo tolti un pezzetto, dai. dovessimo togliere un 20-30% di errori arbitrali, Sì. No, non sia mai. Ma tu perché voti Pierluigi? Per la moviola in campo o no? No, io voto per la moviola in campo sulle situazioni metriche, nel senso che secondo me esiste una differenza fondamentale fra situazioni dove la valutazione dell'arbitro, la sensibilità, la forza o meno di un contatto la può decidere solo l'arbitro. In pratica sono tutte le questioni sulle quali continuiamo a discutere dopo aver visto la moviola. Sì. Mentre sulle cose metriche, che sono pallone dentro, pallone fuori, ma anche secondo me guardalino elettronico, perché no? Vedi, direttore, per questo che io e Pardo siamo una coppia di fatto. Pensiamo che siamo d'accordo modo. Prima, però, secondo me. No, ma siamo d'accordo da anni, da tempo, insomma, da quando abbiamo siglato questo patto storico. La pensiamo allo stesso modo. Poi, vabbè, è normale che. Ma no, a me non piacerebbe un calcio a due velocità. E poi, soprattutto, non riesco mai a capire perché ci debba essere questa esigenza di certezza del diritto solo in Italia, mentre all'estero no. No, ma io infatti vorrei che fosse esteso a tutto, cioè che il calcio cambiasse radicalmente. D'altronde, voglio dire, voi mi dite giustamente, io accolgo la vostra obiezione, però ve la rimando. Come sarebbe finita la finale del Mondiale se non ci fosse stata la moviola in campo che avesse in qualche modo visto e punito Zidane che dava la testata a Materazzi? Io penso 1-1 ugualmente, perché comunque mancavano pochi minuti, però già sicuramente quelle ore magari al posto di 3 secondi. Sì, comunque, sì, ma... però quello è stato un fatto che ha segnato, che ha segnato il mondo del calcio, la storia del calcio. Ma il domandone è, ma non è bello così? Con il calcio? No. Io vorrei che ci fosse, non dico la certezza del diritto, ma la possibilità di avere strumenti in più per arrivare alla certezza, per cui se ci sono degli episodi evidenti, insomma, io credo che in quel caso, secondo me, sarebbe giusto. Ti ripeto, ma poi, come dice Braschi, dice quello è un rigore che si può vedere soltanto in televisione, e allora perché lo devono vedere tutti, ma tutti, tutto il mondo, meno quello che deve decidere? Ecco, quello me lo trovo storico. No, questo è incredibile, e fra l'altro io penso che sarebbe veramente nell'interesse degli arbitri. Io non credo che l'arbitro, siccome io non credo alla malafede, io non penso minimamente che un arbitro possa sorridere di un errore che viene visto poi con le telecamere da tutta Italia e da tutto il mondo. Quindi io sono assolutamente convinto che la tecnologia darebbe una mano agli arbitri. Ma poi tra l'altro, appunto, tutti gli arbitri quando smettono o si mettono a fare i moviolisti o dico, e quindi voglio dire, c'hanno evidentemente questo prurito che c'è sempre, oppure comunque tutti ti dicono magari ci fossero l'aiuto della tecnologia. No, ma sai, direttore, sai cosa? Io li vorrei sentir parlare, perché la cosa più sconvolgente di questa settimana, ma alla fine non è tanto sto rigore di cui parliamo da domenica pomeriggio, che ci ha fracassati. Ma non è... Esatto, secondo me quella cosa lì è veramente inconcepibile, incomprensibile. Cioè, questo io non sopporto, che non esca chi ha scritto quel referto a dirci: allora Borca Valero mi ha dato dello stronzo e allora io gli do 4 giornate di squalifica. Ma da quelle immagini è lì che io non sopporto, non riusciamo a capire. No, è vero, infatti Borca Valero gli dà ufficialmente del bugiardo, va bene, e fa benissimo, fa benissimo. No, ma che comunque è addirittura più grave di averlo toccato con una mano. Gli dà del bugiardo. E Gervasoni non vuole, non può comunque dire la sua versione, per cui o è un bugiardo o se non lo è non ha il diritto della difesa, che trovo, sono d'accordo con te, che dovrebbero avere la possibilità di spiegare anche loro qual è il punto di vista, che cosa è successo, che cosa hanno provato in quel momento, ma il problema è che se parlassero loro probabilmente parlerebbero di meno Nicchi e Brassi, invece vogliono essere un po' protagonisti, no? E parlano loro. Che dici, Piero? Dico che secondo me, allora, sarebbe bellissimo se la rivoluzione culturale portasse tutti ad accettare i verdetti del campo senza problemi, e se la vivessimo come un gioco. Siccome questa cosa mi pare chiaro che non c'è. Poi in alcuni paesi, come in Italia, sicuramente c'è più cultura del sospetto, in altri c'è di meno, ma attenzione, non è che non si litiga di arbitri anche da altre parti, cioè le discussioni, non è solo Mourinho, anche Ferguson. Ma secondo me questo è bello, vi ricordate Ferguson a Manchester Real Madrid l'anno scorso? Ma come Ferguson? No? Ecco, ma questo è bello, non è mica brutto. Ma assolutamente, però voglio dire, siccome non puoi ridurre purtroppo la conflittualità, nel senso che non puoi convincere le persone, fate i bravi, su, è stato un errore, non, per favore, non vi arrabbiate, a questo punto cerchiamo di ridurre gli errori nei limiti del possibile. Ripeto, sulle situazioni metriche già secondo me si risolvono un sacco di problemi, un sacco di casini, e sul resto secondo me deve essere lasciata assolutamente una discrezionalità all'arbitro, sui contatti, sulla forza di una spinta, sul famoso danno procurato, questo sicuramente. E anche sul diritto di sbagliare, guarda cosa ti dico. Ma sì, però appunto come Montella, che secondo me sta dando delle lezioni di comunicazione straordinarie, perché lo trovo molto misurato, però arguto, pungente, però insomma... Anche se ci devono dire, anche se Montella e Della Valle ci devono dire questi riferimenti, il tutti, il loro, a chi si riferiscono esattamente, perché io non lo capisco. Sì, però ecco, insomma, Montella ha detto: io ho sbagliato alla fine della partita, pensavo una cosa, e ho offeso anche l'arbitro, ho detto una parola fuori posto, mi scuso, ho sbagliato. Così, nello stesso momento, secondo me, se ogni tanto un arbitro di fronte a una cosa evidente uscisse e dicesse: ragazzi, ho sbagliato, chi è esatto. che ho sbagliato, che dobbiamo fare? Scusate, ho sbagliato, mi dispiace. Secondo me servirebbe un pochino a stemperare. Invece appunto questa posizione sempre da contrapposizione, da sfida continua, secondo me non aiuta alla serenità. Senti, direttore, io prima di salutarti voglio chiamarti a difenderti da un'accusa che arriva da un ascoltatore. Perché quando questo succedeva all'Inter stavi zitto o sminuivi, diceva un ascoltatore. Non penso sia così. però chiamo te a questa risposta. Beh, insomma, guarda, quando questo succedeva all'Inter, cioè che l'Inter era favorita. No, quando gli errori arbitrali erano a favore dell'Inter, erano a svantaggio dell'Inter. A svantaggio dell'Inter, sì. Non te li ricordi? Io ultimamente francamente non me ne ricordo, mi ricordo qualche campionato onestamente 3-4 anni fa, quello con Mancini che tra l'altro è un amico, per cui però mi ricordo una serie di errori a favore dell'Inter. Io francamente negli ultimi anni vedo nell'ultimo tempo, in queste ultime giornate, che l'Inter non ha avuto un rigore, per cui però e l'abbiamo detto, insomma, però non in questa maniera così accentuata. A me francamente mi sembra che l'Inter che sia stata sfavorita così nettamente negli ultimi anni non sembra onestamente. Salvo quest'anno, ma secondo te gli interisti hanno un po' di mania di persecuzione? Secondo te come? Secondo te hanno un po' di mania di persecuzione? Gli interisti? No, secondo me l'Inter ha ragione. Quest'anno ci sono state delle situazioni, per dire, prendo l'ultima partita, secondo me il rigore fischiato contro l'Inter, quello per il fallo di mano di Juan, non c'è. Invece c'è un rigore alla fine per un fallo su Icardi, per cui hanno una buona dose di ragione. Poi è chiaro, è brutto dirlo, ma quando gli errori succedono, quando c'è una competizione, tu stai in testa al campionato, primo, secondo, terzo, è chiaro che ti danno la sensazione che spostano un po' gli equilibri della classifica. E se ne parla di più. E quando gli errori succedono, per dire in Sampdoria-Milan pure c'è stato un errore, il secondo gol del Milan è regolare, però se in una posizione di classifica in cui ci sono un po' più di fari, un po' più spenti, se ne parla un po' di meno. Non è giusto perché gli errori sono tutti uguali, però fanno più sensazione quelli che decidono una salvezza, questo o è sicuro, un Champions League, uno scudetto, insomma, ecco. È la legge dello show. Grazie direttore. Va bene, grazie. Alla prossima, ciao. Pier, tu stai lì, non ti muovere, sì. Non tornare in camerino, per favore. Che camerino? Ma, no, dove eri al trucco? Ma perché sei vanitoso? Dai, lo so, dai, fa il bravo. Impazzito. Sono troppo deluso anche un po' del sistema, di tutto questo che sta succedendo. Credo che è una mancanza abbastanza di rispetto alla mia integrità come giocatore, come persona. Dire tutto quello che ha scritto l'arbitro dopo la partita, perché credo che non sia nemmeno vero. Credo che in nessun momento ho fatto niente, nemmeno per essere espulso. Tutti convocati. Prossimo mese tutti convocati in tournée, Pierluigi Parla. Sì, andremo a Napoli, a Bari. Sì, poi dopo ti do tutte le notizie, tra l'altro. Eh? Ah, le sai? A me non dicono mai niente. È sempre stato così, a me adesso non dicono niente. Cioè, lo sai tu adesso? Cioè, andiamo a Napoli, a Bari? Sì, Napoli, Bari. Quindi invitiamo già, saremo lì fisicamente, tutti convocati invitiamo. Lì. Io voglio subito un ascoltatore di Bari. 800 24 00 24, voglio un ascoltatore di Bari, così almeno ci dà una mano a organizzare la roba. Siamo da Bari. Sì, no, c'è un ascoltatore che mi dice: ma quale copia di fatto? Tu hai detto che vuoi l'aiuto della tecnologia solo per il gol non gol, parlo anche per il fuorigioco, c'è una bella differenza. Beh, in tutte le copie c'è chi vuole la macchina blu, chi ha vuole grigia, no, un minimo di contraddittorio ci deve essere. Io per il fuorigioco non lo voglio, a me non piacerebbe. No, a te però sì. Io ti dico che rispetto anche a quello che pensavo 2-3 anni fa, sto diventando più a favore della tecnologia. Non so se perché mi sto biscardizzando e potrebbe essere. Stai invecchiando. Ma nel senso che poi alla fine, quando tu vedi nel rugby si fermano 5 minuti per vedere se c'è una ma meta, no, ma lascia stare, c'è un addetto lì con un non me piace, non so cosa dire. È questione di gusti, no? Te piacciono bionde, a me more, o a te more, a me bionde, oppure tutte e due. Francesco da Bari. Me rosse piace. Salve. Allora, sa che veniamo a Bari il mese prossimo? Ho sentito. Io mi sento in questo periodo quando vado al lavoro. Allora, quindi, Francesco, lei ci deve dare una mano. Io non so ancora dove ci mandano, lo sa Pardo, organizza lui. Però so che saremo lì e quindi, mi raccomando, porti la clac. Dove andiamo, Pierluigi? Dove andiamo? So questo, no? Io so, dopo ti dico le cose mie. Va bene, vai. Poi faremo comunicazioni ufficiali comunque. Sì. Francesco dica. Allora niente, per quanto riguarda, io sono naturalmente, prima dico che sono tifoso interista. Interista. Quindi, Allora, stiamo parlando sempre di questi rigori dell'Inter e queste cose. Quindi l'Inter, purtroppo, io almeno come la vedo io la questione, è una squadra in rifacimento. Sì. Quindi se in 10 partite, 8, 9, mi venite a danneggiare, è chiaro che dandomi un rigore o non dando, posso pure sbagliarlo, la squadra avversaria può fare altri 3 gol dopo, però io la situazione la voglio vedere nel momento in cui io mi danno il rigore. O come domenica scorsa è successo che un rigore inesistente con Jesus che non c'aveva nessuno dietro a cui poteva arrivare la palla di avversario, secondo me c'era abbastanza un rigore. È stato un rigore, ha mandato il pallone davanti. E il rigore non ci stava, come anche sui Icardi invece stava. Sì, anche sui Icardi ci stava, però non è una cosa. I giudici di linea, tipo rigore dato alla Roma all'andata su Jorginho, l'ho rimosso. C'era l'arbitro di linea della posta lì a un metro, non è stato dato. Quello che spero io. Guardi, no, Francesco, non mi sto perdendo. Senti, ci vediamo a Bari. Poi ti dico. Mi sto perdendo. Io l'ho detto qualche settimana fa, insomma, lo ribadisco. Cioè, quest'anno sicuramente c'è stata una serie di episodi arbitrali che non ha favorito l'Inter. E per una squadra comunque che era a caccia di autostima. In un momento che il calo c'è stato evidente e non è colpa degli arbitri, però è chiaro che se penso per esempio a Inter-Chievo, tanto per fare l'esempio più classico, se una partita in casa nella quale non giochi benissimo, nella quale comunque fai un gol regolare, la vinci, e poi tutta la settimana dopo è una settimana con meno polemiche, con più entusiasmo, quindi questo è quasi la palissiano, insomma. Al tempo stesso devo dire, a proposito di quello che dicevo Calelli prima, secondo me ci sono state fasi diverse, perché sicuramente negli anni di Mourinho, insomma, l'Inter era la regina della comunicazione con Mourinho, ma non credo che si possa lamentare per quello che è successo in questi anni, per cui in quegli anni lì. Io credo che in generale non ci sono regole assolute, così come devo dire che in quegli anni lì, invece, subito dopo Calciopoli, spesso era la Juve a doversi lamentare per degli episodi. Io mi ricordo benissimo la famosa partita contro il Napoli con i 2 calci di rigore, ma anche altre situazioni in quegli anni lì erano sicuramente situazioni che non andavano nel verso che la Juve avrebbe voluto. Quindi diciamo che vanno e vengono, oppure diciamo che sono corrotti. Senti, ma tu che sai le cose, signor Cruciani viene in trasferta con noi a Napoli, Bari, eccetera, viene in tournée? È chiaro che lo invitiamo. Avviene? Noi lo invitiamo, poi se viene non lo so, adesso lo invito pure a Tiki-Taka lunedì, però insomma, anzi glielo preannuncio, adesso vedremo che scusa avrà, dovrà fare, no, devo fare il bucato, ho uno yogurt che mi scade, il gatto sul fuoco, queste. Andiamo da Fabrizio a Pescara, Franco Modena, Stefano Verona, sono lì da un po', poi ricordami però che ti devo chiedere una cosa sul signor Boateng, tu che sei amico di famiglia, perché l'han beccato che fumava e si faceva una birretta in attesa dell'antidoping a Leverkusen Schalke 04, e c'è un medico del Federcalcio tedesca che si è dimesso. Questo però te lo chiedo dopo. Fabrizio. Convocato. Eccolo. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio. Allora, se ci inviti veniamo anche a Pescara, volentieri. Come no? Siamo in tournée. Pescara, un attimo, siamo in tournée. Volentieri. Una chitarrina, Sono con Borca Valero tutta la vita. Chissà cosa ha scritto Gervasoni. Mi domando chi non lo è con Borca Valero. Cioè, potremmo fondare un partito e battere Renzi. Un signore. Poi grande articolo di Graziano Cesari ieri o ieri l'altro, non ricordo. Ieri, Corriere Benissimo, dello Sport. Fantastico. E poi, nonostante il tuo dissenso, il rugby ci insegna tanto. Forse lì hanno più tempo da perdere, non lo so, però fanno il replay pure per un fallo da cartellino giallo. E non ci sono così tanti interessi economici come nel calcio. Quindi mi chiedo perché lì così nel calcio niente. No, fra l'altro aggiungo, il rugby è uno sport tradizionale, no? Cioè, tradizionalista. Ecco, io sono anche d'accordo su questo, no? Perché uno dei principali argomenti contro la moviola in campo e contro la tecnologia è proprio questo, di dire no, non possiamo snaturare, c'è una perdita di fascino. E posso anche essere d'accordo, però vedo che nel rugby c'è questa cosa. Ma scusatemi ragazzi, ma non è detto che perché lo fanno nel rugby che è giusto. Cioè, io ad esempio nel rugby a me va bene capire attraverso la moviola in campo se la palla è stata schiacciata in meta oppure no, che è la stessa cosa di dire il pallone è entrato oppure no, ma il resto si può anche fare a meno. Però voglio dire. Chiedo scusa che nel rugby il rispetto per l'arbitro cioè, chiedo scusa, il rispetto per l'arbitro nel rugby è sacrosanto, eh? Sì, uno non può permettersi di dire all'arbitro, non può, perché altrimenti retrocede di 10 metri indietro fino ad avere una meta contro. Quindi è diverso, proprio è diverso anche l'atteggiamento dei giocatori, insomma. E lì non ci sarebbe bisogno di una moviola, veramente. Ma poi scusate, ma se tu 50 anni fa guardavi la TV in bianco e nero e adesso guardi invece il 3D, l'HD, cioè è tutta la tecnologia, ci dà una mano a vivere in maniera diversa, no? E quindi perché io sono, ti ribadisco, per me ci sono degli ambiti discrezionali che devono rimanere assoluto appannaggio dell'arbitro, nel senso che poi comunque l'arbitro, che è il più vicino, dovrebbe essere il più vicino all'azione, ha la sensibilità per poter valutare certe cose, ma sugli errori proprio evidenti, sulle situazioni proprio evidenti, metriche, misurabili, ma quello, se il pallone è entrato di 20 centimetri, quello sì, però anche l'idea di dire ok, nel rugby fanno così, nel football americano fanno cosà, nel tennis fanno di nuovo così, il rugby è diventato meno affascinante da quando c'è la moviola? Secondo me no, non è che la gente non va più a vedere le partite, non è che ha perso fascino, non è che non cantano. Ma non è quello il punto, però, Pier, non è quello, cioè se diciamo meta non meta, ok, ci può stare, come il pallone dentro fuori, un chip nel pallone risolveremo un sacco di problemi, non lo vogliono mettere, vabbè, ce ne faremo una ragione. Franco da Modena, andiamo anche a Modena, sulla via. Allora, Modena, Pescara, anzi, il mio sogno, sai qual è, Pardo? Sì. Tu che conti? Fai, insomma. Il mio sogno è una settimana alle Eolie. Andiamo alle Eolie. No, ma no, andiamo in giro in tutta Italia. Cioè, io vorrei fare tutti i convocati itinerante. Cioè, andiamo in tournée e stiamo via un anno. Sì, poi parli tu con Pier Silvio. Cioè, penso io, ti preoccupa. Lasciate servire. Signor Pier Silvio, sono Pardo, forse. Presente Tiki-Taki. Passo gente. Itinerante anche. Anche quello, dai, ma questo immobilismo. Tutta la redazione, portiamo Foroni. Ma andiamo tutti. Andiamo tutti, vabbè. Franco? Pronto? Pronto? Dica. Ciao. Franco, da Modena. Sì, dimmi. Sono il paese di Lorenzo Insigne e di Francesco Lode, Fatta Maggiore. Ah, vero. Niente, io volevo dire una cosa. Io il Napoli ieri non l'ho visto, perché non ho l'abbonamento né Sky né Mediaset. Sì. Però mi farebbe piacere che voi il giorno dopo ne parlasse un po' della partita, come hanno giocato, come hai ragione, giocato. Ma sai che ti dico, hai ragione, allora l'Europa, ci genuflettiamo e chiediamo perdono, perché io voglio... Allora il Napoli come ha giocato? L'Europa ha confermato che il Napoli è pieno di contraddizioni, che la Juve è illuminata da un'ottima stella, c'è un gran culo, e che invece la Lazio non ne ha. No, beh, la Juventus ha risolto, brava, brava la Juventus, però ha risolto subito nel primo tempo. La Juve ieri ha fatto una partita pazzesca, poi certamente l'avversario non è Real Madrid. No, ma non è questo l'avversario, comunque sai, segni nel primo tempo 5-0 ieri. Sul primo gol della Juventus è finita la partita, poi adesso possiamo dire che il Trebisonda non era granché, però non è questo il punto, hai ragione. No, una ottima Juve, una buona Lazio che però poi è caduta vittima di alcuni errori veramente incredibili del portiere. Il Napoli non mi è piaciuto tanto, però ha messo in campo la voglia, no? Fino alla fine, e poi ha delle qualità davanti che sono straordinarie. La partita sarà messa malissimo, Reina ha fatto delle parate decisive, tutti i rischi, gli ostacoli, le paure che avevamo si sono verificate vere purtroppo per il Napoli, che ha rischiato tantissimo. La risolta nel finale è stata una partita bellissima, nel senso molto intensa, combattuta fino alla fine, poi vinta 3-1, ma veramente... qualcosa di molto importante dal punto di vista del carattere, secondo me. La Juve è benissimo, c'è veramente quasi poco da dire, nel senso che ha fatto una partita perfetta. L'unico piccolo, diciamo, cosa migliorabile è fare qualche gol in più, perché ne poteva fare un paio in più, ma ha giocato una partita eccezionale. La Fiorentina ha gestito, aveva già fatto il suo all'andata, insomma. Secondo me hanno giocato bene tutte e quattro. Dispiace per la Lazio, perché veramente si era messa bene, aveva avuto un atteggiamento sulla partita molto diverso rispetto a quello dell'Olimpico, aveva trovato il gol subito. Secondo me rimane un po' di rimpianto su Klose un po' prima, è entrato a un quarto d'ora alla fine, ha segnato il gol del 3-2 e soprattutto poi c'è stata questa sciagura che è capitata, doppia sciagura che è capitata a Barchetti, che di fatto poi ha portato quando non ci credi fino in fondo, poi perdi 1-0 in casa, così insomma te ne vai un po' a cercare, questa è la mia sensazione. Detto questo, la Lazio insomma è veramente una roba da mettersi a piangere. Stai lì ancora un po', stai con me, strade e poi torniamo. Tutti convocati. Non è solo il caso dell'Inter, ho letto e ho sentito questa settimana tante cose, no? Che sul caso arbitrale, ma come ho sentito tante cose e ho letto tante cose, penso che non c'è niente da aggiungere, soprattutto perché tutta la settimana abbiamo sentito questa cosa delle curve, questa cosa degli arbitri, ma io quello che spero è che nel futuro si parlerà molto di più del gioco, dei giocatori, dei grandi giocatori, della tattica, del modulo di gioco, più del campo, perché è quello che mi aspetto di un grande calcio italiano. È tutto, non c'è niente da aggiungere su questo punto. Per quanto riguarda me, sono tranquillo e contento di quello che sto facendo tutti i giorni, anche con i giocatori, tutto quello che facciamo sul campo, i miglioramenti di tanti aspetti che vedo, a volte non si traducono in punti, ma io li vedo. Ora questo pre-partita freschissimo di Roma-Inter, sentito Garcia e Mazzarri, ma in fondo, insomma, se non ci fosse stato quello che è successo domenica, è successo con Borja Valero, ma che settimana piatta sarebbe stata, con un campionato in rigor mortis, Juventus prima, Roma seconda, situazioni cristallizzate, Napoli terzo, poi Fiorentina e tutte le altre. Meno male che c'è qualcosa da dire. Matteo, io non odio il rugby, non piace tanto tutta l'allegoria e l'iconografia che c'è intorno al rugby. Secondo me un po' di sana critica ci sta, soprattutto per una nazione italiana che non vince mai. Però insomma sono anche un po' stufo di dire sempre le solite cose. Stefano Verona, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Stefano, scusa un attimo perché sai, sto invecchiando e un po' rincoglionendo, quindi volevo chiedere a Pardo prima la storia di Boateng, visto che è amico di famiglia. Com'è sta storia? No, ma la storia di Boateng è abbastanza semplice. Cioè, Siga, birretta prima dell'antidoping, mica male, ragazzo. Posso dire una cosa? Sì. Impopolare. Ma che male c'è? Cioè, voglio dire, la birretta era proprio finalizzata a fare la pipì, ecco. Che male c'è? Non è che stava facendo cose proibite, appunto, illegali, appunto. Voglio dire. Sulla sigaretta si può discutere, ma vabbè, insomma, siamo all'ambito delle cattive abitudini, voglio dire. Ma poi voglio dire, è pieno di calciatori che fuma, dai. Ma sì, ma no, io sto con Boateng, non perché. Io posso mettere Pio Nicone, Sabino Nela, grandissimo, presenza in Serie A, Genoa, Roma, Napoli, ce lo ricordiamo con la Malboro accesa, come dice lui, dopo nello spogliatoio dopo aver vinto lo scudetto. Cioè, secondo me, come tutte le cose della vita, c'è un uso e c'è un abuso, che ovviamente facciamo male, non devo essere io a dirlo. C'è il Ministero della Sanità e vari ricerchi, io tra l'altro non fumo neanche, quindi però insomma non mi sembra di per sé una cosa. No, io sono d'accordo, ecco. Pier, ma poi soprattutto questo andare a frugare nel privato, cioè lui era lì che stava aspettando di fare l'antidoping, dopo la partita si faceva una birretta, non un ettolitro, una sigaretta, va bene. Siamo all'ambito delle cattive abitudini. Ha scattato la foto, c'è un po' di discussione su questo, perché pare possa essere stato addirittura lì qualcuno all'antidoping. Insomma, è una vicenda che infatti non a caso sta portando anche a una serie di provvedimenti, diciamo, politici, dimissioni di un medico della Federcalcio tedesca, medico antidoping della Federcalcio tedesca. A me sembra tutto molto esagerato questo, e mi sembra anche un po' perverso, se devo dire la verità. Perché per l'appunto andare a frugare sotto le gonne dello spogliatoio è una cosa che mi piace fino a un certo punto. Stefano, dicevamo? Sì, ciao. Ciao. Dato, se volete passare anche da Verona, volentieri, vero? Come no? Ma come no? Verona tra l'altro siamo di casa. Non vi spostate con le auto blu? Auto blu? Con le auto blu? Ma non ci conosci? No, Massimo, è una bici. Battuta, insomma, visto che adesso ci sono queste auto blu che ormai sono in giro così tante, insomma, basta che voi passate tranquillamente da Verona, ci mancherebbe, anzi. Sì, no, no, ma veniamo, ma quale auto blu? Veniamo, veniamo in treno seconda classe. Sicuramente è una battuta, ci mancherebbe. Dimmi. Niente, io mi riallacciavo al discorso degli arbitri, che secondo me, se loro scrivono a referto una cosa, è difficile poi andare contro quello che scrivono. Ma allora perché non ce lo spiegano? Voglio dire, perché e poi c'è un ascoltatore di Bergamo che dice: io sto con Gervasoni sul comunicato di giudice sportivo, c'è scritto né più né meno di quello che si è visto, basterebbe leggerle. Cioè, io allora ha ragione Borca Valero, allora Gervasoni è bugiardo, Il problema è che sono inappellabili, nel senso che non so se voi siete al corrente anche di Verona su quello che è successo, che hanno diffidato la curva per una cosa che dati alla mano con le registrazioni che come si dice, loro dicevano che c'erano questi cori contro i napoletani, e assolutamente con questa registrazione che la società, che chiaramente si sta muovendo in maniera veramente encomiabile quest'anno, nonostante tutto quello che loro hanno documentato, il referto arbitrale è rimasto invariato. No, ma lì, guarda Stefano, però il problema lì sta a monte. Purtroppo basta uno che sente una parola, una cosa, riferisce, scrive referto. No, ma hai ragione, però a San Siro vengono riaperte le curve, a Torino non le chiudono dopo quegli striscioni, a Roma sbarrano tutto. Il problema è che mi sembra che questa storia si stia attorcigliando su se stessa come un serpente molto perverso, e non vedo anche nemmeno come si possa uscirne da questa situazione. Tra l'altro, io adesso non ho avuto conferme, nel senso che l'ho cercato stamattina, non ho visto la Fiorentina ieri, qualcuno dice che ci sono stati cori sulla Isella. Sì, non hai ragione. Viene sottolineato anche da alcuni ascoltatori via SMS. Li ho letti, li avrei pubblicizzati dopo, ma hai ragione. Non ho visto la partita, non l'ho sentita, però insomma ci sono stati, ma è lo stesso principio di superiore. C'è questa cosa bellissima che hanno fatto a Torino, che è questo museo, nella sede del Museo del Grande Torino, questo museo congiunto delle vittime di Superga e della Isella. Sì. Queste sono le cose da valorizzare, da mostrare, perché poi qui è chiaro che diventa una moda. Infatti, guarda caso, quest'anno fortunatamente ci sono molti meno bu razzisti, perché in questo momento mi sembra che i cretini si siano spostati su un altro versante. Fa più notizia a Vesuvio, fa più notizia a Superga, notizia a Isella. È una boiata pazzesca. Mi chiedo anche se alla fine non dovremmo semplicemente metterci la sordina, però è una cosa che alla fine non si riesce a fare. Ma no, si riesce, come si potrebbe riuscirci perfettamente. Non si entrano, si vedono, che fai, non ne parli, non lo so. No, ma anche perché siamo, purtroppo siamo le trombette di quelli lì, no? Perché adesso c'è sta moda per cui ogni coro, ma per tutto il meccanismo che si è creato, ogni striscione viene enfatizzato. E noi regaliamo gratis un sacco di pubblicità a questi cretini. È questo il problema, e quindi hai ragione tu, ci vorrebbe altro che la sordina. Dovremmo farlo, certamente, perché loro non fanno altro che cercare questo tipo di pubblicità per le loro ragioni, perché gli conviene anche economicamente. Leonardo Bologna. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, intanto vi faccio i complimenti perché siete simpatici. Grazie. Io prometto, sono un tifoso del Bologna. Però allo stesso tempo mi domando, cioè mi chiedo se avete mai visto le videocassette degli ultimi 20 anni del calcio italiano, quando dite che il Pardo, giustamente a suo parere, dice che non crede nella malafede degli arbitri, o tu mi sottolinei il fatto che non sei per la tecnologia. Cioè, i furti degli ultimi 20 anni li avete visti? Lo dico da tifoso del Bologna, cioè come si fa a dire a non sostenere un po' più di tecnologia in campo, al di là della linea della porta, quelle cose lì che sono scontate, chi non può essere d'accordo a mettere un sensore sulla linea di porta, cioè mi sembra che ne goderebbero tutti, ma per un tifoso di una piccola squadra che l'unica cosa che ha di bello è andare a giocare con la Juventus, col Milan, e rubare e non vedere rubarsi una partita, ma prendersi la soddisfazione di vincere, perché possono vincere solo quelle cose lì, le piccole squadre, cioè una partita con una grande squadra. Come si fa a non portare avanti la battaglia della tecnologia in campo? Questo che vi voglio domandare. Cioè, ma Leonardo, come si fa? Semplicemente a me è una cosa che non mi piacerebbe vedere un rigore assegnato alla Moviola. Sinceramente a me non interessa vedere un rigore assegnato alla Moviola. Non so che dire. Se a questo punto diciamo che le grandi sono grandi, si mangiano le piccole, che sono vessate perché le grandi sono potenti e le piccole no, può essere questo discorso. Non dimentichiamo però che viviamo, l'ho detto molte volte, nel paese dei comuni, delle signorie, dei guelfi, dei ghibellini, che litighiamo per partito preso, perché siamo fatti così, ce l'abbiamo nel DNA, Pierluigi. Sì, ma è lo stesso discorso che potevamo fare da ore, non siamo completamente d'accordo tutti. Io ribadisco, per me sulle situazioni misurabili risolverebbe un sacco di problemi e toglierebbe dei sospetti. Poi che l'errore arbitrale o il dibattito faccia parte del calcio, della sua liturgia, dei dibattiti, questo sì, ed è uno dei piaceri, secondo me, della bellezza, del fascino di questo gioco. Però bisogna stare attenti anche alla credibilità di questo gioco. E allora, in un'epoca nella quale noi viaggiamo in macchina col navigatore satellitare, che 40 anni fa non pensavamo nemmeno che potesse esistere, ci mandiamo mail da una parte all'altra del mondo per comunicare, whatsappiamo in tempo reale con chi c'è, insomma, che il calcio rimanga dietro e che ci siano situazioni in cui un pallone entra di 20 centimetri o non entra di 20 centimetri e l'arbitro sbagli perché è l'unico al mondo a non accorgersene, secondo me è un controsenso. Senti Pier, ci whatsappiamo dopo, grazie. Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Non c'è giornale radio in quanto c'è l'assemblea sindacale, della stessa ragione per cui non avete sentito la borsa prima, ma naturalmente dopo torneranno sia giornale radio che borsa. Invece, dopo questo break, torniamo noi. 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Ragazzi, non vorrei fare una campagna pro fumo, antifumo, eccetera, leggo un miliardo di messaggi sulla questione relativa alla storia di Boateng che si fuma una sigaretta e beve una birra prima del controllo antidoping, che sta provocando un casino abnorme secondo me in Germania, quindi ognuno fa quello che vuole e si tiene i vizi che ha, anche se sono pessimi. Gianluca, provincia di Pordenone. Ah, buongiorno, la chiamavo proprio buongiorno. Riguardo a questo ultimo argomento di Boateng. Sì. Le faccio una premessa. Secondo lei perché la Germania va bene e l'Italia va male? In che senso? In generale. In generale. Economicamente, politicamente, come è stato? Mi sembra la classica domanda trabocchetto. Non si è reso neanche conto che quella persona, Boateng, non me ne frega che è un giocatore, stava fumando in un ambulatorio medico. Sì. Com'è che fa dire così, troppa cagnara, troppa cosa? Alle persone comuni non è concesso. Allora, era nel dopo partita, stava aspettando l'antidoping, però non dovrebbe neanche essere concesso di rubare e divulgare una fotografia di quel tipo. Andavano lì, gli dicevano, ascolta ragazzo, spegni quella sigaretta, eccetera, eccetera. Detto questo, secondo me c'è una grave violazione della privacy in tutte queste cose. Cioè, io sono dell'idea che ormai i social network e quanto ne deriva comportino delle violazioni della privacy pazzesche, tanto che non ce ne andiamo neanche conto. E questo a me fa incazzare da morire. Perché di sì? Perché c'è una violazione o un'autoviolazione della privacy, una rinuncia alla privacy, che secondo me è terribile. Molto più di Boateng che fu un ambulatorio pubblico, va bene, ha sbagliato, gli fanno spegnere la sigaretta, lo prendono per le orecchie e gli dicono qua non fumi, non è che gli stampano la foto e gli fanno fare il giro del mondo e provocano sto casino. Quindi è questo che io contesto. Se poi va fuori, si fa una sigaretta, sono fatti suoi e a me non interessa, mentre questa violazione, questa continua violazione della privacy a me dà un fastidio, semplicemente questo, caro il mio Gianluca. Allora, la prossima voce del ce l'abbiamo? Prossima voce del moto mondiale? C'è? Prossima voce del moto mondiale ha pubblicato ora un tweet con scritto: ora parte l'avventura, mi sa che sarà rock and roll vero. Dai, finire il test davanti è sempre una bella soddisfazione. Alla fine di questa mattina era veramente dura e c'era un sacco di temperatura e era caldissimo e si faceva un po' fatica. Io ho avuto qualche problemino e mi sono dovuto, diciamo, fermare prima di quello che pensavo. E Pedrosa è stato molto veloce, ha fatto un buon long run, è stato il migliore, quindi probabilmente se la gara fosse oggi pomeriggio io partirei in pole position, ma probabilmente Pedrosa vincerebbe la gara, ecco, quindi ancora dobbiamo lavorare e cercare di migliorare. Queste gomme del 2014 ci danno un po' di problemi alla moto, e quando si scaldano la moto diventa difficile da guidare, quindi dobbiamo andare un pochino più piano. Sembra che la Honda invece riesca a stare sempre lì. Allora, signori, la voce del moto mondiale di Sky è questa, Zoran Filicic. Ciao. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao. Allora, sei pronto? Come lo racconterai? La domanda è banale, me ne rendo conto, ma come lo racconterai questo moto mondiale? Allora, con emozione e passione, sai, sì. Adrenalina e racing è uno sport meraviglioso. E lo puoi raccontare soltanto così, con tutto quello che avviene intorno, facendo magari capire anche quella che è l'atmosfera in paddock, le cose che non si possono vedere da casa, e poi con l'aiuto di tutti gli altri, perché abbiamo un gruppo veramente fenomenale messo in campo. Sì, ricordiamo chi sono, perché ci sono molti ascoltatori, sai, io ho un sacco di amici che seguono le moto e mi stanno massacrando dicendo: ma allora Sky cosa fa? Come lo fa vedere? Chi lo racconta? Che voci ci sono? Chi c'è? Come fanno? Sta diventando matti tutti, eh? Allora, è molto semplice. Per quel che riguarda le telecronache, saremo io e Loris Capirossi per la MotoGP. Per la MotoGP, sì. Poi? Poi ci sarà Rosario Triolo insieme a Mauro Sanchini per la Moto2. Sì. Rosario farà anche la Rookies Cup, perché sì, faremo vedere tutto. E poi ci saremo di nuovo io insieme a Mauro Sanchini per la Moto3. Mm. Poi avremo la conduzione degli show dai paddock di René Saderini. Poi abbiamo Sandro Donato Grosso, sempre Joy Paddock, Biagio Maglienti, che cura anche tutta la parte editoriale, la sua esperienza e la sua conoscenza dell'ambiente fondamentale. Questo per quelli che vanno in onda, quelli che vanno proprio in campo. Sì, sì, sì. E sì, poi sì, c'è chiaramente tutta la struttura alle spalle, dai produttori ai... Sai, noi siamo una squadra, Sky ha sempre lavorato come squadra, questa è la sua forza, per cui dall'audio ai cameraman, a tutto quello, all'ufficio stampa, tutti quelli che si mettono in campo, si lavora in questa maniera. Inutile dire, no, Marco mi scrive: i Foo Fighters commentano la MotoGP? Ovviamente no, la commenta Zoran Filicic e ne stiamo parlando. Non so se ti piacciono i Foo Fighters, abbiamo scelto questa. Comunque, inutile dire che si andrà dalle prove, cioè si comincia alle 8 del mattino del venerdì e si va fino alla notte della domenica. A parte il Qatar che è una gara in notturna, poi c'è il fuso orario, per cui si articola su 4 giorni, perché si inizierà il giovedì, ma è l'unica eccezione. Noi faremo vedere tutto in diretta, tutto live, dalle prime prove fino alle qualifiche, fino ai warm up e poi fino alle 3 gare della domenica. Sì. 8 gran premi andranno anche in chiaro su cielo, quindi sì. I gran premi, esatto, in chiaro su cielo, sempre con il nostro commento. Saranno 8 gran premi. Per cui il sabato e la domenica le qualifiche e i gran premi, le gare, e poi anche ci saranno tutte le sintesi dei restanti il sabato e la domenica, sempre su cielo in differita. Senti, ma come si passa da Sean White a Valentino Rossi? Ah, con passione. Sai, io vado in moto da sempre, è stato il mio primo mezzo e il sogno più grande, forse, sempre seguito i motori, sì, parallelamente, essendo coinvolto in tante situazioni di gare e di show anche, o di interviste, e ci passi con la stessa passione, come avevo scritto, tu hai citato il mio tweet, sì, ora parte l'avventura, mi sa che sarà rock and roll vero, ed è rock and roll vero. Sì, va anche bene, perché basta guardare i tempi di oggi, mi sembra un Valentino Rossi d'antan, almeno dai primi vagiti, basta guardare i tempi di questa mattina, Rossi e Pedrosa, miglior tempo negli ultimi test in Malesia, 1.59.999, spaccato al millesimo uguale. Sì, hanno commentato anche Pedrosa, ha commentato su Twitter subito: se avessimo fatto apposta non ci saremmo riusciti. Vabbè, sì, questo è chiaro. E poi la notizia di oggi, chiaramente la notizia grossa di oggi, è Ducati che ha ufficializzato, sì, come immaginavamo, ma ha ufficializzato il passaggio alla configurazione Open. Sì, che vuol dire? Spieghiamolo. Che in poche parole vuol dire che puoi utilizzi il software fornito da Dorna, sì, dell'elettronica, hanno tutti la stessa centralina Magneti Marelli, però utilizzi un software non fatto in casa che utilizzeranno soltanto Yamaha e Honda ufficiali. E poi ha un serbatoio che hai 24 litri di benzina, di carburante invece che 20 litri, hai una scelta di gomme più morbida. Ma soprattutto hai 12 motori nel corso dell'anno invece che 5, sì, per cui c'è uno sviluppo maggiore possibile. Un'ultima cosa, Zona, io ti chiedo questo, ovviamente non un pronostico, ma come la inquadri questa stagione del motomondiale? Perché è chiaro che adesso, anche sulla base di questi test, sulla base dei primi, delle prime prove che abbiamo visto, siamo tutti qui ad aspettare al varco Valentino Rossi. Sarà davvero competitivo secondo te? Sarà davvero da mondiale? Oppure se la giocano gli spagnoliti come al solito? Lorenzo è il mio personale favorito, per questo mondiale lo dico subito. Ma guarda, la cosa bella di questo mondiale, secondo me, parlando proprio di MotoGP, perché ricordiamolo, sono tre campionati mondiali, Moto3, Moto2 e MotoGP, sì. Per la MotoGP prevedo un campionato aperto, cioè mi piacerebbe vedere tanti piloti in corsa per il podio, per cui parlando di Valentino è chiaro che molti italiani sperano un ritorno a grandissimi livelli di Valentino, io spero di vedere delle grandi battaglie e dei vincitori sempre diversi, per cui Marquez aspettiamo il suo ritorno, la riconferma. Lorenzo vuole riprendersi a casa il titolo, ma hanno dichiarato che le Yamaha erano abbastanza scontenti dei pneumatici, soprattutto negli ultimi giorni. Per oggi Valentino è andato fortissimo, un Valentino forte fa bene allo spettacolo e chiaramente al campionato. C'è sempre Pedrosa che sta andando fortissimo e soprattutto Ducati in configurazione open, interessante, voglio vedere cosa farà. E poi ci sono anche le altre open con Espargaró che sta andando fortissimo, cioè vorrei vedere proprio grandi battaglie per i primi tre posti. È quello che ci auguriamo tutti. Senti, ti invidio molto, Zoran, grazie. Grazie mille. Andiamo a fare un giro insieme prima o poi in moto, appena possibile, anche se piove. Ciao. Ciao, sempre, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Eva Bergamo, buongiorno. Buongiorno Eva. No, io volevo parlare proprio di Valentino perché non la sentivo più parlare di Valentino. Sì, mi piacerebbe, vi piacerebbe che non parlassi. Invece voglio tanto bene a Valentino. Anch'io. Solo che adesso, per fortuna, ho sentito che ne fanno 8 senza pagamento. Ne fanno, sì, 8 in chiaro, sì, che andranno sul cielo. Ma questo si sapeva, Eva. Cioè, questi... Perché io c'ho Sky, ma a prendere tutto costa l'ira di costa Dio. Che sordi, ha ragione. Però questi 8 gran premi è come per la Formula 1, no? Cioè hanno l'esclusiva su quanti sono, su tutti meno quegli 8 che appunto andranno anche in chiaro su cielo, e quindi lì si potranno vedere senza svenarsi. Almeno qualcosa, perché qui se no tra tutti a pagamento, no? Le cose più importanti, le Rai, le Mediaset che aveva sto MotoGP l'ha lasciato perdere, non lo so. Vabbè, comunque Valentino anche se non dovesse vincere speriamo che torni a vincere, torni a fare qualcosa. Volevo fare un'osservazione anche sul le mancherà Guido Meda, abbiamo sentito la nuova voce del motomondiale, sì. Zoran Fischer, che è molto bravo, mi sembra una bella voce, bravo, sì. Ma poi è uno che ha adrenalina, insomma. Ma che fine fa Meda non si sa. Sa no, è Vivolotti insieme a noi, fa la Superbike, lavora in Mediaset, non ha visto Superbike. Non si è svegliata a vedere la Superbike in no, Australia lo no, scorso no. weekend, io sì no. Ah, perché c'è ancora Meda? Sì, c'è, certo. Speriamo. No, dalla voce sembra uno valido. Volevo fare una piccola battuta su Balotelli e Icardi. Meno male che adesso parlano un po' di Icardi con le sue stupidate, lasciano in pace un po' Balotelli sulle varie TV locali, eccetera. Sennò non respira più sto ragazzo. Già, ha ragione. Oggi Cacà mi ha dato... Ce l'abbiamo Cacà che parla di Balotelli? Non mi ricordo più. Franco Piantanida, Roberto, ce l'abbiamo Cacà che parla di Balotelli? Sì, guardi, le faccio sentire cosa ha detto oggi Cacà su Balotelli. Il rapporto con lui è molto bello, parliamo spesso, diciamo, scherzi, giochiamo tantissimo, lui è uno che mi piace, poi secondo me sta crescendo molto, e è uno che può diventare, sì, sicuramente una storia, non solo nel Milan come nel calcio internazionale, per la nazionale italiana, è un giocatore... È un fenomeno, mi piace tantissimo, deve imparare, deve fare tante cose per consolidarsi, però secondo me ce la farà. Torna la grande stagione Superbike, allora tutti in piedi sul divano, a cannone, dopo il semaforo scatenate l'inferno, dentro! Oh, ma che te strilli! Ciccio, io sono quello che strilla, tu sei quello che spiega. Prima Cacà e poi il promo di Guido Meda con Max Biaggi per la Superbike. Massimo, buongiorno. buongiorno. Ai, ai, ai. Secondo me nel calcio bisogna parlare un attimino con i figli. Massimo, io non la sento mica, magari riproviamo tra un attimo. Alessio, provincia di Siena. Sì, buonasera, Teo Genta. Alessio, buongiorno. Come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Complimenti, è veramente una bella trasmissione. Lei grazie. E Sergio Fardo sono siete fantastici. Mi piacerebbe sentirlo di più commentare la mia Juve, perché secondo me è fenomenale quando commenta le partite. Però faremo presente ai piani alti, va bene? Niente, volevo sapere di Guido Meda perché mi interessava, però mi ha già risposto perché ho sentito che sarà lì con voi a commentare. No, qui con noi. No, Guido Meda, no, è un grande amico, lo chiameremo di sicuro. Ma Guido Meda commenta la Superbike su Mediaset. Sarà dura non sentirlo per la MotoGP. No, ma si può, basta guardare la Superbike, Alessio. Anzi, ci sarà, lei sa, la Superbike weekend alterni, grosso modo, quindi weekend Superbike, un weekend moto mondiale, quindi per carità. Anzi, io l'ho sentito bello carico anche sabato notte scorsa a commentare la Superbike dall'Australia. Certo, dobbiamo dire la verità, MotoGP è un'altra cosa, e poi insomma parliamo un sacco di Valentino Rossi. Io ho sempre dichiarato il mio tifo, non me ne vergogno, perché anche in questo non c'è niente di male. Sono grande tifoso di Valentino Rossi, ma sono in nutritissima compagnia in questo caso, perché insomma basta guardare qualunque Gran Premio, basta guardare le tribune di qualunque Gran Premio. Ora abbiamo il gruppetto dei tifosi di Marquez, il gruppetto dei 99, cioè gli hombres di Jorge Lorenzo, il gruppuscolo di Pedrosa sempre più ristretto, poi abbiamo la macchietta rossa degli irriducibili della Ducati, ma tutto questo, queste sono isolette in mezzo a un mare di giallo 46. Cioè, Valentino Rossi è un fenomeno planetario e io credo che come me a tifare Valentino Rossi ci sia anche tutto l'establishment della Dorna, perché il giorno che questo decide di ritirarsi gli prende una botta anche dal punto di vista economico e commerciale che dalla quale sarà dura rialzarsi. Va bene ragazzi, adesso vi saluto. Domenica dalle 17 alle 19 c'è Giovanni Capuano con tutti i convocati weekend, poi Giovanni Capuano mi farà compagnia anche lunedì e martedì. Noi ci sentiremo mercoledì. Franco Piantarino di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Questo è Benedetto Ferrara, come sta la nonna? Ragazzi, dimmi. La forza di Borca Valero, oltre al fatto appunto che esiste un piano umano e professionale, secondo me che lui ha disegnato con parole molto chiare, nette, sofferte, e quelle più sofferte senza retorica sono state quelle che lui ha dovuto, siccome lo conosco, quando lui dice ho dovuto spiegare a mio figlio perché mi hanno cacciato via, e lui non sapeva che dire, però qui ci sono delle immagini che spiegano che Gervasoni se l'è un po', insomma, come dire, sognato tutto. Giancarlo Padovan, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Un arbitro che non ha né capo né coda, uno che ha iniziato la sua carriera prendendo tre vaffa da Totti e non estendendolo, uno che ieri non ha visto un rigore che oggettivamente Giordano secondo me sbaglia secondo me a parlare di malafede, ma era un rigore difficile da non vedere, ma insomma Rizzoli è un sopravvalutato. E allora perché va ai mondiali Giancarlo? Perché al momento è un sopravvalutato, ma è effettivamente il miglior arbitro italiano. Mi scusi tanto Pardo, le devo dire solo questo, che il suo è giornalismo spazzatura. Grazie. Sono sterili polemiche, diciamolo una volta per tutte, fate letteralmente vomitare lei e Cruciani e compagnia cantante. Cioè, Cruciani è la zanzara, appunto, e fa vomitare pure Cruciani e Parenzo, e fa vomitare pure Parenzo, ma io l'abbraccio fortissimo, e fa vomitare pure tutti quanti, lasciatevi in pace, me ne socio, grazie, me ne socio profondamente, completamente dalle dichiarazioni del signor Cruciani. Parlate massimo 4 alla volta, chi c'è collegamento al telefono, stai zitto. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?